Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Perché è un po' come viaggiare con uno sconosciuto in treno, dove si raccontano di sé delle cose pensando che poi quella persona magari non la rivedrai mai più. I giorni passavano senza soluzione di continuità. Ogni mattina mi sedevo nello stesso bar per far colazione e leggere un giornale locale, fingendo di appartenere da sempre a questi posti. Storie di trasferimenti e di una donna che attraversa l'Africa, in una puntata che si intitola On the Road. Adesso voglio proprio vedere cosa ci facciamo con la tua guida pulita. Fai così, ma non lo capisci che non ho neanche la patente? Te devi essere un pilota, cazzo, te devi anticipare le curve, capito? Ti devi prendere dei rischi. Però siamo in città. Devo andare con questo cazzo di polmone, non strappa! Il polmone qua, facevi 140 in terza quando lo tirava sottoscritto, in terza. Anche perché fai solo cose senza senso? Guarda che il papà lo sapeva benissimo che per vincere bisogna prendere dei rischi. E poi divertiti, Giulia, ti devi divertire! Loris, non mi sto divertendo per un cazzo! Questo è un estratto di quel film italiano che si intitola Veloce come il vento, con Stefano Accorsi che fa la parte di un vecchio pilota. È liberamente ispirato, ho scoperto, a un pilota di rally realmente esistito che si chiama Carlo Capone. La sua vita, le sue gesta di grande pilota sono appunto rievocate in questo film. Questa puntata si intitola On the Road e vi raccontiamo storie di persone che sono sulla strada. La prima storia è la storia di una donna che proprio è in automobile sulla strada, perché trova la sua via attraverso la guida, trova anche il suo lavoro attraverso la guida. E poi andiamo invece da un'altra parte, andiamo in Africa e vi raccontiamo la storia di una donna molto anziana che attraverso la guida quasi ritorna, non dico giovane, ma torna ad avere una motivazione in più per ringiovanire, perché attraversa tutta l'Africa e tutta l'Europa con la sua automobile. Ma andiamo con calma e vi raccontiamo lentamente ogni storia. Questo è uno dei temi, quello dell'automobile, quello del guidare. È uno dei temi che automaticamente fanno scattare la narrazione collettiva, quello che viene definito un circolo virtuoso delle storie. Sapete quando vi sedete a tavola una sera, siete con degli amici e uno comincia a raccontare le proprie gesta e dice: ah, oggi ho fatto da Milano, questo era tipico, no? Milano Curma in un giro di Rolex, non me la ricordo, non diceva esattamente così, però Milano Santa in un giro di Rolex, credo che dicesse quell'attore che faceva sempre la parte del Bauscia Brianzolo. Quella però è una delle appunto delle tematiche su cui ci si scanna di più e su cui si racconta di più e si romanza di più, su quanto ci metti per andare da qui a là e poi cosa ti è successo quando sei andato durante quel viaggio, cosa è successo alla tua macchina, quando ti hanno fermato alla frontiera o ti hanno fermato i vigili, quando hai preso una multa. Il muoversi in automobile è uno dei grandi temi narrativi dell'intrattenimento, proprio da cena, da incontro con gli amici, da colloquio tra più persone che si trovano insieme. E se non ricordo male, è anche uno dei temi che faceva più arrabbiare mio papà, quando arrivava un amico che diceva: ragazzi, sono arrivati a Genova in 50 minuti da casa nostra, dove abitano ancora i miei genitori oggi, che la provincia di Novara, che per quanto ci sia un'autostrada che fa Gravellona Toce Alessandria Genova, insomma è un po' complesso metterci 50 minuti per andare fino a Genova. E allora lì partivano le discussioni: ma da casello a casello? No, perché da casello a casello sono capaci tutti, ma da casa a dove devi arrivare? Insomma, nasceva già lì la grande discussione, la grande narrazione legato all'automobile, al viaggiare e farsi chilometri a una certa velocità o meno. Poi in realtà fortunatamente ovviamente oggi non si possono nemmeno più fare perché ci sono i limiti molto molto chiari sulle strade. Ma tant'è, se avete delle storie da raccontarci che hanno a che fare con dei viaggi, che hanno a che fare con degli spostamenti, non dei viaggi a mo' di racconto come si chiamano quando si vedevano le fotografie tutte insieme, no? Le diapositive, ecco, non ci interessano tanto i viaggi in cui ci raccontate ho visto questo, ho visto questo, ho visto quest'altro, ma dei viaggi in cui è accaduto qualcosa, una linea d'ombra che avete varcato durante quel viaggio, se di viaggio stiamo parlando, che vi ha reso una persona diversa. Altrimenti, sapete cosa? Ascoltatevi le puntate di oggi e magari vi viene un po' di ispirazione. Benvenuti a Linee d'Ombra. Mi trovavo all'età di 52 anni in un momento di completo stallo lavorativo. Dopo la chiusura di un negozio di articoli per l'infanzia di seconda mano che non aveva riscosso successo nella cittadina marchigiana in cui mi ero trasferita un paio d'anni prima, mi ritrovai a dovermi arrangiare con lavori precari e sottopagati, con la cocciutaggine di non mollare per non dover rientrare al nord da sconfitta. La decisione di trasferirmi nelle Marche dalla Lombardia, dove ero nata, era maturata per raggiungere il mio fidanzato di allora, che per esigenze professionali viveva lì. Ma non solo. Da sempre desideravo portare le mie radici più a sud. Ed ora che avevo finalmente raggiunto il mio obiettivo, dovevo affrontare un doppio fallimento, professionale e sentimentale. Non solo l'attività per cui avevo lasciato un posto sicuro e ben pagato in una multinazionale milanese era stato un insuccesso, ma anche la relazione con il mio fidanzato, nel frattempo, era naufragata. In pratica avevo perso tutti i punti di riferimento e dovevo ricominciare veramente tutto da capo. Quello che mi ero lasciata alle spalle era tanto. Era la famiglia, era il lavoro e non avevo nessun tipo di contatto professionale, amicale, che potesse darmi delle possibilità di reinserirmi nel mondo lavorativo. Quindi io ero veramente nello sconforto, ero parecchio depressa, mangiavo poco, dormivo poco. Mi svegliavo tutti i giorni da sola, con il peso della precarietà di chi non ha intorno una rete familiare o amicale a supporto e con la consapevolezza che l'età e la non appartenenza a questo territorio non avrebbero favorito un mio ricollocamento professionale stabile e duraturo. Insomma, andava riprogrammata da zero tutta la mia vita. I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. I can see you staring, honey, like he's just your understudy, like he'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking bridges, those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. Your problem anymore. So who am I offending now? You were my crown. Now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. So I'm leaving out the side door. Ma come potevo ricominciare da capo? La depressione avanzava e il conto corrente, al contrario, si assottigliava. Da dove partire? dalle mie competenze, dalle mie passioni. Quali erano le mie competenze e quali le mie passioni? I giorni passavano senza soluzione di continuità. Ogni mattina mi sedevo nello stesso bar per fare colazione e leggere un giornale locale, fingendo di appartenere da sempre a questi luoghi. Io sono sempre stata qui, dicevo a me stessa. Io già c'ero, illudendomi per non sentirmi invisibile. Finché una mattina il mio sguardo si posa sulla bacheca degli annunci locali affissa al muro del bar di fronte alla cassa. Quel foglio A4 era lì da tempo e da tempo l'avevo notato, ma quella mattina fu come se lo vedessi davvero per la prima volta. Diceva così: vendesi licenza taxi per raggiunta età pensionabile, astenersi per di tempo. Oltre al senso di libertà, è un lavoro di una semplicità estrema, perché tu devi portare un cliente da un punto A a un punto B, ma con la responsabilità di dover sempre essere comunque in grado di sostenere le ore di guida e di farlo nel modo più confortevole, e comunque di mantenere un po' di relazioni sociali che comunque non guastano, perché sono un arricchimento quotidiano. Ecco, dissi a me stessa, ecco l'occasione che aspettavo. Mi è sempre piaciuto tanto guidare. Ho grande dimestichezza con la strada, ho un'ottima memoria per i tragitti e un forte senso dell'orientamento. Tutto ciò, unito alle capacità comunicative e relazionali e alla decennale esperienza di rapporti con la clientela. Ecco che cosa cercavo. Ora avevo un obiettivo. Iniziai la trattativa commerciale e le pratiche per l'ottenimento dell'abilitazione al ruolo. Il mio destino professionale era finalmente tracciato e da lì non voleva discostarsi. Il mio destino camminava su quattro ruote. Fu così che diventai l'unica donna alla guida di un taxi della provincia di Pesaro Urbino. Capita molto di frequente di sentire storie, racconti o anche solo aneddoti di persone che hanno cambiato vita, hanno trovato un nuovo lavoro, magari l'hanno trovato quasi per caso e sono felici di quel lavoro, felici della loro vita. A dire il vero, gli ascoltatori di Linea d'Ombra sono un po' su questa falsa riga. Generalmente quando ci mandano storie di vita che hanno a che fare proprio con il confine del facevo questo, ho cambiato e faccio quest'altro, abitualmente sono tutti abbastanza soddisfatti. Però in generale Valeria mi sembra che li superi tutti. Pronti? Ciao Valeria, buongiorno. Ciao Matteo, buona giornata anche a te. Come stai? Benissimo, sto benissimo. Senti, sei in taxi? Sono in taxi perché sono in turno di lavoro. Quindi rischiamo di farti saltare un cliente? No, tranquillo, okay. Mi sono presa del tempo per noi. Senti, mi dici esattamente in che pezzo delle Marche vivi? Allora, io vivo a Fano, nella cittadina di Fano, e faccio parte del Radio Taxi Fano. E quanti siete a Fano? Quanti taxi ci sono? In totale sono 6 taxisti del Radio Taxi Fano. Tu sei, ti trasferisci da Milano nelle Marche, giusto? Questo è Io sono bresciana. Sono nata in provincia di Milano, ma in realtà ho sempre vissuto a Brescia, perché il papà era bresciano, okay. La mamma milanese, ma il papà bresciano. E tu lavoravi per una grande azienda da queste parti, al nord? Io lavoravo per una multinazionale. E cosa facevi esattamente? Io ero una market developer per Coca-Cola. Ah, proprio la grande lavoro del marketing moderno, insomma. E tu a un certo punto hai deciso: vado a vivere nelle Marche. Sì, diciamo che è stata una scelta indotta da un motivo un sentimentale. Po' più... Esatto. Eh beh, certo, ci si muove per due motivi, insomma, alla fine, per l'amore e per il lavoro. E insomma, a un certo punto ti ritrovi su un taxi. Esatto, sì. Senti, quante ore fai in auto ogni giorno? Il turno è di 12-13 ore. Wow! Ma sì. Di queste in movimento quanto, in media? Dipende dal movimento alla stazione ferroviaria, dipende dal movimento dei turisti. Però quante corse farai in un giorno più o meno, Valeria? 10? Guarda, in questo periodo meno degli altri anni, certo. Normalmente una decina di corse a testa riusciamo a farle. C'è un grande calo del turismo anche nelle Marche? Sì, ci ha salvato la presenza del mare, ma solo per il mese di agosto. Adesso certo. Si ritorna veramente a lavorare meno perché le grosse aziende sono chiuse. E quindi non arrivano i clienti, non arrivano i fornitori. E poi non arrivano i turisti dall'estero, soprattutto, che sono quelli, no, che pochi, movimentano moltissimo. Esatto. Senti, ma quindi tu, ad esempio, durante il lockdown hai lavorato? Io durante il lockdown mi sono fermata una ventina di giorni perché, essendo bresciana di origine, la mia famiglia a Brescia mi ha detto: Valeria, fermati, certo. Perché qua è una strage. Certo. E quindi sono stata ferma una ventina di giorni. Poi, quando ho capito che invece la città, comunque, siccome ci sono fermati tutti i tassisti della città, uh-huh. Ho capito che la città aveva bisogno di... Movimento. Insomma, di un servizio pubblico che servisse gli ospedali soprattutto. Quindi mi sono sentita di dover tornare al lavoro ed è stata una scelta che non rimpiangerò mai perché è stata un'esperienza unica. Sì? In che senso? Primo, vabbè, sentirsi libera di poter muoversi quando gli altri non lo potevano fare. E soprattutto che quando mi muovevo era perché qualcuno aveva bisogno di spostarsi per esigenze importanti, perché tu sai che c'erano delle restrizioni. Sì, sì, sì. E quindi chi si muoveva doveva per forza avere un motivo molto importante, per cui la persona che doveva rientrare assolutamente a casa perché non aveva nessuno che poteva andare a prenderlo alla stazione o all'aeroporto. Sì, sì, insomma, un servizio vero e proprio alla cittadinanza nel senso più, insomma, più stretto, esatto, e poi pronto soccorso, perché Fano non era Covid, era Pesaro Covid, okay. Quindi tutto il pronto soccorso intorno a Pesaro no Covid era dirottato su Fano, certo, però poi quindi. Le persone non riuscivano magari a tornare a casa, per cui c'erano chiamate anche notturne di gente che veniva di messa, che doveva rientrare, che non aveva familiari perché tanti anziani. Sì, è chiarissimo. Insomma, ti ritrovi fuori dall'ospedale e dici: ma come vado a casa? E lì arriva Valeria. Valeria, l'ultima cosa prima di salutarti: c'è ancora qualcuno, o meglio, qualcuno, e se qualcuno sono in tanti o pochi, che si stupisce del fatto che ci sia una donna al volante? Ma guarda, è una cosa che ho notato che da una parte mi fa sorridere, dall'altra comunque mi fa essere orgogliosa, perché primo è uno stupore positivo, nel senso: ah, che bella, la prima volta che viaggio in taxi con una donna. E dalla seconda parte è quella, diciamo, realizzazione della passione unita al fatto di avercela fatta. Chiarissimo. Di essere riuscita a fare realmente quello che avrei voluto fare poi nella vita. Valeria, ti ringrazio molto per quello che ci hai raccontato e per come ce l'hai raccontato. Ti lascio tornare al lavoro, in bocca al lupo per tutto e a presto. Grazie Matteo, grazie. Ciao, buona giornata. Grazie mille, ciao. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Grazie mille a Valeria per la sua storia, per il suo pezzo di vita raccontato qui a Linea d'Ombra. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Radio 24. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. Giulia Albu non è mai stata una persona con dei grilli per la testa. La sua routine quotidiana si inseriva perfettamente in ciò che il mondo si aspettava da una donna anziana che vive in un villaggio verdeggiante vicino a Città del Capo. Ogni mattina ascoltava la radio ed è stato proprio grazie a una notizia sentita in radio una mattina che la sua vita ha avuto un'impennata improvvisa. Un giorno sentì che l'allora presidente Jacob Zuma aveva una sfrenata passione per le auto nuove di zecca. Ero irritata, racconta oggi Giulia. Ho telefonato immediatamente alla trasmissione per dire che io avevo quasi 80 anni e la mia macchina, una Toyota che io chiamavo affettuosamente Tracy, aveva 20 anni e funzionava ancora magnificamente. Io e lei, insieme, saremmo potute andare tranquillamente fino a Londra, dissi. Quindi la passione del presidente Zuma non aveva senso. In questa puntata che si intitola proprio On the Road, la seconda storia di oggi è una storia che abbiamo ascoltato in un podcast della BBC ed è quella di Giulia Albu e del suo viaggio da Città del Capo a Buckingham Palace. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Incoraggiata dalla risposta entusiastica che ricevette in radio, Giulia prese sul serio la possibilità di andare in macchina a Buckingham Palace per prendere il tè con la regina. E in poco tempo i semi di quello che era iniziato come uno scherzo iniziarono a germogliare. Sei mesi dopo, all'alba del suo 80° compleanno, Giulia partì sulla sua Toyota grigia piena di adesivi, puntando verso nord. Prima di partire, dice, avevo voluto vaccinarmi contro tutti i virus conosciuti. Quando il dottore mi disse che non pensava che avrei avuto bisogno di alcuna precauzione per le malattie sessualmente trasmissibili, fui seriamente tentata di cambiare medico. Lasciò il Sudafrica per il Botswana, attraversando distese di alberi di pepe e affrontando le prime fredde notti invernali. Io e Tracy, dice la mia auto, stavamo sbuffando lungo la strada quando abbiamo dovuto fermarci per lasciare passare un elefante. Tutto sembrava magico, dal calore che scorreva attraverso i finestrini fino ai baobab. Tutti quelli che incontravo erano molto gentili con me. Mi chiamavano Gogo, nonna. In quelle prime settimane Giulia spesso dormiva in una tenda sul lato della strada, ma se il suo spirito era totalmente rapito dall'esperienza che stava vivendo, il suo corpo arrancava. La sua famiglia si è dunque mobilitata per accompagnarla nell'impresa. Sua figlia è andata con lei attraverso lo Zimbabwe, mentre il figlio ha fatto lo stesso in Malawi. Ma oltre ai momenti di difficoltà, Giulia ha vissuto momenti di totale euforia nell'assistere allo spettacolo della natura africana dal lago Malawi alle cascate Vittoria dello Zimbabwe. I Masai hanno riferito al commissario del distretto di Ngong che molto spesso, all'alba e al tramonto, hanno visto dei leoni sulla tomba di Finch Hatton. Un leone e una leonessa sono stati là, accovacciati sulla tomba, per molto tempo. Dopo che tu sei andata via, la terra intorno alla tomba è stata spianata. C'è una specie di terrazza. Credo che questo spiazzo sia un posto molto gradito ai leoni. Dallassù possono vedere tutta la pianura e le loro prede. A Dennis questo piacerà molto. Devo ricordarmi di dirglielo. Non mi sono mai sentita sola, racconta, anche quando ero da sola. Ho amato la compagnia dei miei figli e ho goduto dei momenti intimi che ho trascorso con loro. Ma spesso mi sono coccolata in compagnia di Tracy, la mia Toyota. Anche Tracy è una signora anziana come me e questo viaggio lo stavamo facendo principalmente io e lei. L'età di Giulia in certi casi ha rappresentato un vantaggio. I posti di frontiera africani sono notoriamente difficili da attraversare, ma i camionisti con cui condivideva la strada hanno cominciato a riconoscerla e a darle una mano. Quando ero una ragazza, il pensiero che io guidassi da sola attraverso l'Africa sarebbe stato del tutto assurdo, ma il mondo è cambiato e sono felice che sia così. non ha avuto problemi con le persone. Inoltre, il valore della saggezza degli anziani è radicato in molte culture africane. E poi li facevo sempre ridere. Quando mi chiedevano perché stessi andando a Londra, rispondevo: per prendere un tè con la regina. Durante il viaggio Giulia ha imparato a scrollarsi di dosso i pregiudizi e le convenzioni legate all'età. In Tanzania, in un resort per coppie in luna di miele, ha fatto il bagno a mezzanotte. In Etiopia si è accompagnata con un gruppo di ventenni nella depressione della Dankalia, un paesaggio lunare di lava e pianure di sale e zolfo, spesso descritto come la porta dell'inferno. In Tanzania ha fatto amicizia con un suo coetaneo di nome William. Hanno trascorso un paio di giorni insieme, seduti su una panchina a parlare di massimi sistemi. In Sudan penso di avere avuto il mio momento di gioia più pura, racconta, mentre guidavo da sola attraverso il deserto sulla lunga strada per Khartoum. In Egitto ha fatto delle tappe ad Aswan e nella Valle dei Re fino a raggiungere le strade inquinate del Cairo. Nel suo ultimo giorno ha parcheggiato sulle rive del Nilo per raccogliere una bottiglietta d'acqua torbida. Durante il viaggio aveva riempito altre due bottigliette, una alla fonte del Nilo Bianco in Tanzania e l'altra lungo il Nilo Azzurro in Etiopia. Pensavo che ci sarebbero state bene sulla trave del mio caminetto, racconta. Il viaggio africano si è concluso al Cairo. Da là è ritornata in aereo a Città del Capo, aspettando che Tracy, la sua auto, venisse trasportata via nave fino in Europa. Alcuni mesi dopo si sono ricongiunte in Grecia e da là sono ripartite per il rush finale. Ha guidato attraverso Albania, Montenegro, Croazia, Slovenia, Austria, Germania e Olanda ed è arrivata a Londra per la stagione estiva. Stavo morendo dalla voglia di prendere un tè con la regina, ma era la settimana del Royal Ascot e lei era molto impegnata. You know the nursery rhyme about all the king's horses? In Britain yesterday, the queen won a big prize at Royal Ascot. No other king or queen has done that. As Charlie Daggett reports, it happened on a very traditional and colorful racing day. A quel punto Giulia ha pensato che l'unica cosa da fare fosse tornare a casa. Ha girato Tracy e si è avviata verso il sud Italia. Abbiamo la tendenza a trattare gli anziani con i guanti, ma l'eccitazione e l'avventura non sono prerogative solo dei giovani. Non lo sapevo prima della mia avventura, ma alla mia età sei più libero di quanto tu non sia mai stato. Io ho perso il marito e i figli sono ormai cresciuti. Ho imparato a preoccuparmi molto meno delle conseguenze di quello che potrebbe capitarmi. C'è una libertà nella vecchiaia che è un peccato non considerare. She got a new friend, said she got a new day. Said she living in the hills, she don't worry about a thing. Said he give her dollar bills, no biggie, got a Benz. We used to kick it at your crib when you stayed in Topanga and you couldn't pay rent. So we meditate and we pray. What happened to your dreams? All you care about it seems. Now you take all these things to cover up, it seems. I don't understand. I don't like your man. We don't got no plans. I don't want your hugs. I just wanna go back to times when money didn't make you budge. And then this at our fingertips. Don't sweat it, just get it. We too cool to admit it. All we have is the internet. Limitless at our fingertips. questa storia, vi dicevo, la storia di Giulia, l'anziana Giulia Albu, l'anziana signora sudafricana che ha attraversato tutta l'Africa e poi tutta l'Europa in auto. L'abbiamo ascoltata alla BBC e veramente voglio citare di nuovo quella frase finale che sembra quasi una profezia: c'è una libertà nella vecchiaia che è un peccato non considerare. Ed è davvero la prima volta che io, che diciamo non temo particolarmente l'invecchiamento, mi sento felice nell'andare incontro agli anni della vita che passano. Grazie davvero a Giulia, grazie per il racconto che ci ha fatto e grazie per queste parole. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo in Africa, ma ci torniamo 50 anni prima e siamo sempre con Antonio Cocco, il legionario. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo. La mia linea di confine si lega a quello che faccio. Io sono maestro elementare e sento di essere sul confine. Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita. Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente... Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova. Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio prendete padre. Il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linea d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721. Sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no. Sei disperato? No, non sono disperato. Sei solo? Non sono solo, c'è mia compagna. È evidente, sei proprio solo. Ma ci pensiamo noi. Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic. Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti. Cioè, come faccio? Vieni su Telegram, sì? E cerca Off Topic _ 24. E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito? Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24. Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina. E faccia un sorriso! Si diverta! Ma no, ma ne... Che la vita già dura poco! Ma no! No! Linee d'ombra. Cosa c'è nel deserto di così incredibile da renderlo un luogo non solo fisico, ma a tutti gli effetti un luogo d'arte, di letteratura, di riflessione, un luogo che va quasi oltre al suo esistere, ad essere davvero, lo fa diventare davvero un'astrazione. Io non sono mai stato in un deserto vero, sono stato in alcuni punti di desertici, che non è esattamente la stessa cosa, fuori dal Cairo, verso le piramidi, che ormai in realtà le piramidi sono praticamente alla periferia del Cairo, ci sono attaccate. Ho viaggiato in una piccola carovana verso un'oasi, che però più che un'oasi io mi immaginavo una palma in mezzo al deserto e un laghetto d'acqua sorgiva, ma in realtà era una regione che però era appunto considerata un'oasi in mezzo al deserto. Ma chi c'è stato in quei luoghi desertici, nel deserto dell'Atacama, chi è stato nel Sahara, racconta di luoghi che sono quasi metafisici, cioè che vanno al di là della fisicità e che regalano dei momenti impagabili. Ebbene, questo è una parte di quello che vivono i legionari, tutti i giovani o meno giovani uomini che si arruolano nella legione straniera e che poi si trovano distanza in Africa, dove la legione ha diverse basi, e lì fanno quello che fanno i militari, soprattutto quello che fa la legione straniera: marciano per giorni e notti ininterrotte in mezzo al deserto, e quello che vedono, quello che raccontano è davvero straordinario, soprattutto perché parliamo di persone che sono forzate a farlo, che non sono lì in vacanza, ma che sono spesso devono fare attenzione

grazie a Mauro Pescio per raccogliere questi stralci di fatto, di prosa poeticissima vissuta da dei legionari in mezzo al deserto durante le loro marce. Grazie per continuare a raccontare questa storia seriale, grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche, ad Anita Panizza che orchestra tutta quanta la redazione, grazie mille ovviamente a Paolo Corleoni. Ora ascoltiamo il GR, voi mandateci le vostre storie, linee d'ombra chiocciola radio24.it, che è il modo per indicarci qual è stata la vostra linea di confine. Se invece avete voglia di mandarci un messaggio audio per raccontarci la linea di confine non che è stata ma che è tuttora in questo momento quella che state vivendo, allora mandateci un WhatsApp, un audio, un racconto di un paio di minuti al 331 57 55 721. Ci sentiamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.